Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, i temi di questa giornata economico-finanziaria che chiaramente apriremo come approfondimenti con i dati non belli, lo dico subito, che oggi ha diffuso l'INPS, i dati dell'osservatorio precariato dell'INPS sull'andamento dei contratti del lavoro nei primi tre mesi del 2016. Come molti temevano, c'è stato un rallentamento abbastanza pesante, meno 77%. I contratti stabili nei primi tre mesi sono ancora positivi, sono 51.000 in più, però rispetto ai primi tre mesi del 2015 non era ancora in vigore il Jobs Act, quindi l'effetto è tutto sulla minor decontribuzione di cui possono godere gli imprenditori o chi assume. È passata da un massimo di 8.000 euro per lavoratore per tre anni, questo si poteva fare fino a dicembre 2015, è stata ridotta della metà, perché è poco più di 4.000 euro. Da un lato il minor vantaggio nella decontribuzione, dall'altro anche probabilmente il saturarsi del mercato del lavoro con un PIL che cresce così lentamente, per cui non si può neanche immaginare che uno assuma solo perché risparmia 8.000 euro l'anno di contributi per tre anni. E dicevo, il dato è inequivocabile: nei primi tre mesi meno 77% sul 2015, 428.000 contratti nuovi, 377.000 cessazioni. I contratti stabili, cioè quelli a tempo indeterminato, sono risultati in crescita di 51.000 unità. L'incidenza però dei contratti a tempo, cioè il numero di contratti a tempo indeterminato sul totale dei contratti, è scesa dal 41% del 2015 al 33% di quest'anno. Devo dire che è anche più bassa del 2014, quando il totale dei contratti a tempo indeterminato era del 36%. E questo per quello che riguarda il tema di apertura. Poi l'opposizione, penso Brunetta, dice è la conferma del flop del Jobs Act. Brunetta dovrebbe informarsi però, i primi tre mesi, che sia un dato in calo è inequivocabile, ma i primi tre mesi, il Jobs Act entra in vigore il 7 di marzo, se non ricordo male, per cui i primi tre mesi dell'anno scorso erano, nella stragrande maggioranza dei casi, dati molto positivi, erano dovuti alla decontribuzione. Detto ciò, c'è stato un rallentamento, ne parleremo fra pochissimo. L'altro tema che tratteremo è, da un lato, la conferma di quanto ieri anticipato la Commissione Europea, lo hanno ricordato i nostri GR24, ha dato via libera ufficiale alla flessibilità chiesta dall'Italia, raccomandando che questo scostamento, questo 0,75% di deficit in più, sia legato solo al 2016, e poi sostanzialmente è uno 0,75 più uno 0,10 legato alle risorse per le spese per migranti e sicurezza, confermati in tutto 14 miliardi, confermato che il grosso di questa maggiore flessibilità l'abbiamo ottenuta non per i flussi di migranti, lì ci sono 700 milioni in più, e per la sicurezza, lì ci sono 950 milioni in più, l'abbiamo ottenuto per le riforme, 8 miliardi il grosso, e per gli investimenti, 4 miliardi. Però con il caveat, con la postilla, nel 2017 dovete correggere l'andamento dei conti di 3 miliardi. E anche di questo parleremo. Detto questo, parleremo anche della vicenda greca. Perché? Perché è successa una cosa un po' singolare oggi, nel senso che almeno fino allo scoppio della crisi, quindi fino al 2008, il Fondo Monetario Internazionale era, devo dire anche a ragione, visto come il grande portatore degli interessi della finanza anglosassone, di Wall Street, ma non solo, il grande affamatore secondo i critici di popoli, e tutti citavano un caso argentino, ma non solo, anche le ristrutturazioni di alcuni paesi, altri paesi sudamericani, cioè sostanzialmente la vestale del rigore monetarista, di quello di bisogna ridurre il deficit, il debito, anche se va in recessione non importa, e lì veniva criticato. Perché lo dico? Perché i ruoli si stanno, non dico invertendo, ma quasi. Il Fondo Monetario Internazionale avrebbe chiesto ai governi dell'area euro e in particolar modo al governo tedesco di adottare una soluzione sulla Grecia meno drastica, ossia una moratoria fino al 2040 del debito di Atene. Niente interessi da pagare per Atene, niente rimborsi del capitale che verranno spalmati dal 2040 al 2080. Questo per tenere sotto il 15% i costi che lo Stato greco ha per pagare gli interessi sul debito. Perché cosa dice il Fondo Monetario? È singolare che lo dica chi è sempre stato il rigorista per eccellenza. Dice: altrimenti la situazione greca, del debito greco, è insostenibile. Quindi voi potete continuare, cari tedeschi e europei in genere, a fare la faccia feroce con Atene, ma se poi un debitore, come cerchiamo di spiegare da 3 anni, non ce la fa a ripagarti, se lo strangoli fallisce, forse, come fanno le banche, ti conviene tenerlo in vita per ottenere almeno una parte di questi rimborsi. Il Fondo Monetario dice questo sostanzialmente, dice: attenzione, Berlino sbaglia, sappiamo che Berlino ha il problema delle elezioni il prossimo aprile, però, e sappiamo che Schäuble, il ministro delle finanze, ha detto più volte di essere contrario a una rinegoziazione del debito greco, però lo dice lo stesso Fondo Monetario Internazionale. E anche di questo parleremo. 349-238-6666 per sms, whatsapp e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Partiamo come sempre dalle notizie internazionali. Il PIL dal Giappone, arriva una buona notizia: il PIL è cresciuto tra gennaio e marzo dello 0,4% rispetto al trimestre precedente, e il dato annualizzato porterebbe il PIL all'1,7%, un dato ben superiore all'attesa degli analisti. E tra l'altro anche i consumi in Giappone, da sempre stagnanti, sono in ripresa, più 0,5%. Notizia opposta invece arriva dal Brasile, che, in cui la crisi economica, al di là di quella politica che altre volte abbiamo raccontato, si fa sempre più nera, potrebbe superare i 44 miliardi di euro, sono 150 miliardi di reais, il buco nei conti pubblici brasiliani del 2016. Certo, loro non hanno l'euro, non hanno il patto di stabilità, non hanno Maastricht, ma insomma 44 miliardi di buco, di deficit non calcolato, sono 3 manovre finanziarie dell'Italia. Lo stima l'equipe economica del Presidente della Repubblica di interim, Michel Temer. Tra l'altro, inizialmente il nuovo governo, che appunto ha preso il posto di Dilma Rousseff, sospesa dal mandato per un processo di impeachment, sperava che il disavanzo primario quest'anno fosse di 120 miliardi di reais, e quindi secondo tutti ormai gli osservatori il Brasile dovrà fare un'altra manovra e quindi altri tagli. Allora, chi mi scrive che se sono un grande amante del deficit e del debito pubblico? No, continuiamo a chiedere una spending review seria, che non ci sembra che il governo stia facendo, non seria, ma che stia facendo molto modesta, come la lotta all'evasione. No, però sono un grande sostenitore che per far ripartire un'economia in crisi e anche in rivoluzione, in cambio strutturale, servono investimenti pubblici. Questo ci insegna la storia dell'economia. Che poi li facciamo come eurobond, quindi di carattere europeo, controllati, va benissimo, però insomma senza investimenti pubblici che fanno ripartire anche gli investimenti privati, secondo me usciremo da questa situazione con il passo della lumaca, per cui, e non so quanto si possa poi reggere politicamente una cosa del genere. E per collegarmi con questo, i dati dell'area euro continuano a essere estremamente negativi per quello che riguarda l'inflazione, meno 0,2% anche ad aprile rispetto all'anno prima. I 13 paesi dell'area euro sono in deflazione netta: l'Italia meno 0,4%, la Germania meno 0,3%, Francia meno 0,1%, poi c'è la Romania meno 2,6% i prezzi del consumo, Bulgaria meno 2,5%, Cipro meno 2%. Allora, parleremo più avanti delle raccomandazioni arrivate oggi ufficialmente, di quanto ieri abbiamo anticipato, però parlo dell'Europa nei confronti del via libera

io dico una cosa, massimo rispetto per Brunetta, quello che volete, però dove cavolo era Brunetta quando governava la sua maggioranza con 100 deputati di scarto? Che riforme hanno fatto? Perché io veramente non ne posso più di ascoltatori e di politici che sono sempre bravi a fare qualcosa con qualcosa degli altri, se ci vogliamo capire. Cioè, abbiamo avuto un governo Berlusconi che non ha fatto una riforma sul mercato del lavoro ed era un governo di centrodestra. Potrà non piacere questa, sicuramente ha dei limiti, uno la può pensare come vuole, ma sentirsi fare la predica da chi, diciamo, per mantenere lo status quo, quando ancora si poteva fare, non ha fatto mezza riforma. Brunetta ha fatto molte proposte sulla pubblica amministrazione, ma la riforma della pubblica amministrazione vedremo se sarà efficace o no, l'ha fatta il ministro Madia. Allora, per favore, no? Tutti questi politici che si svegliano improvvisamente ed è come se non avessero mai fatto parte del governo, della maggioranza, del Parlamento negli anni prima, sono insopportabili. Si può dire questo, che sono insopportabili? E poi fate delle proposte, perché io non ho ancora capito da nessun, non è che impazzisca per tutto quello che è stato fatto nel Jobs Act, ma non ho ancora capito quali sono le proposte alternative. Ho capito quelle della CGIL, quelle sì, che secondo me sono impraticabili dal punto di vista della tenuta dei conti, ma del resto io non ho ancora capito. Il reddito di cittadinanza, i soldi dove li troviamo? E basta, perché un politico deve avere la serietà, anche se critica, di dire cosa farebbe lui. Allora, reddito di cittadinanza, vuole 5 stelle, perfetto, bellissima idea keynesiana, dove troviamo le decine di miliardi che servono? Non lo so. Oh, le borse le dico dopo, sì, le dico dopo. Comunque più 1,1 Milano, più 0,50 Francoforte, più 0,50 Parigi, meno 0,20 Londra, poco mossi i titoli in negativo, meno 1% Ferragamo, invece molto bene Pop Emilia Romagna, più 6,20, ST Micro Electronics, più 5,70, UbiBanca, più 3,70, Exor, più 3,40, Intesa San Paolo e Poste, più 2,5%. Detto questo, detto che sono anche stufo di sentire in questo paese tutti hanno la ricetta, poi quando tocca a loro sanno mai cosa fare, perché non sono veramente rotto le scatole. Guardate la difficoltà che ha avuto la Francia nel far passare la loi travail con scioperi, e ha tuttora, no? Non mi sembra che la Francia vada in maniera diversa, però ripeto, voglio le proposte alternative. Perché quando hanno governato loro, per non inimicarsi i sindacati, le classi sociali varie, lotta all'evasione non è stata fatta, la pubblica amministrazione è stata toccata e il mercato del lavoro è rimasto uguale. E allora, su. Eppure la scuola, no, sì, la scuola hanno fatto le riforme Gelmini. Va bene. Professor Della Ringa, nostro ospite, ex sottosegretario del lavoro del governo Letta, economista, deputato del PD, così chiariamo tutto. Buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Per par condicio, diciamo così, dopo aver detto agli ex ministri che non ricordiamo diciamo iniziative particolarmente efficaci su questo, Brunetta può fare quello che vuole, non mi interessa, però veniamo anche a voi. Insomma, qui quello che temevamo si sta verificando. Della Ringa, io ho sempre apprezzato la sua onestà intellettuale, pur essendo lei deputato del PD e quindi della maggioranza del governo. Cioè, 51.000 contratti stabili in tre mesi, meno 77%, l'incidenza è del 33% su tutti i contratti contro il 41%, vuol dire sostanzialmente che se va bene l'effetto che poteva avere la decontribuzione si è esaurito, o si sta esaurendo, scusi. Dunque, non c'è dubbio che ridurre la decontribuzione ha avuto effetti negativi da questo punto di vista, e questo sta a significare che la decontribuzione è importante. E che quindi anche il governo, il Parlamento dovrà decidere bene per la prossima legge di stabilità cosa fare, perché non c'è dubbio che ancora ci sono un certo livello di decontribuzione e io sono convinto che questo debba anche mantenersi nel futuro, altrimenti se si toglie anche questo gli effetti saranno ancora più negativi. Ecco, detto questo, senza voler trovare attenuanti, ma non c'è dubbio che questo effetto di rallentamento è particolarmente forte in questi mesi, lo stiamo osservando in questi mesi, anche perché le imprese, una qualsiasi azienda, di fronte alla previsione che la decontribuzione sarebbe stata ridotta di molto, cosa ha fatto? Che nell'ultima parte dell'anno scorso, solo a dicembre, ha fatto 350.000 assunzioni, cioè ha anticipato quello che magari avrebbe fatto quest'anno, magari qualcuno anche sperando che ci sarebbe stata una ripresa economica anche più consistente, no? E quindi un po' l'anticipo, un po' che di fatto la ripresa economica è stata un po' minore forse delle aspettative, adesso tirano il fiato, nel senso che si sono un po' gonfiate di assunzioni e adesso ne hanno fatte di meno. Io penso che questo sgonfiamento possa durare questi 2-3-4 mesi, poi da maggio-giugno si riprenderà con un volume di assunzioni che è ridotto rispetto all'anno scorso, ma secondo me risentirà ancora positivamente di una decontribuzione che non è da buttare via, quella di quest'anno. Quindi, se ho ben capito la sua linea, sì, c'è stato un rallentamento anche perché la decontribuzione si era ridotta da 8.000 a 4.000 euro, alcuni possono aver approfittato giustamente, se io devo assumere una persona non sono così pirla da aspettare gennaio quando posso assumerla a dicembre o novembre, che poi per 3 anni mi tengo 8.000 euro di contributi in meno all'anno. E, però chissà cosa sarebbe successo se non vi fosse stata la decontribuzione anche per 4.000 euro quest'anno. Detto questo però, Della Ringa, dopo il meteo e la pubblicità, vorrei capire se a questo punto, diciamo in prospettiva, ho capito il suo ragionamento, ma non si stia esaurendo proprio la sacca di quelli che possono assumere. Diciamo prima, non è che un imprenditore assume solo perché paga 8.000 euro in meno, comunque lo stipendio lo deve pagare, cioè uno assume se l'economia riparte in maniera concreta. Però la risposta vorrei dopo il meteo. 349-238-6666 per sms e whatsapp. A chi dice la riforma Madia è una riforma debole, vedremo, sospetto ce l'abbiamo anche noi, vedremo i decreti attuativi, lì si gioca un pezzo importantissimo della produttività di questo paese e della forza del governo anche nell'andare contro lobby e gruppi di voto, perché nel pubblico impiego c'è anche quello. E a chi mi dice se secondo lei il governo sta facendo la lotta all'evasione, no, non la sta facendo come vorremmo. Dopodiché sono scelte anche politiche, ma non la sta facendo come vorremmo. Io ho citato come casi, diciamo, critici la spending review, che non mi sembra stia portando gli effetti sperati, la lotta all'evasione e anche la riforma della pubblica amministrazione. E meno male che sono renziano. Meteo. State ascoltando un programma offerto da... Perché porti dei limiti? Saxo Bank. Fai trading ovunque, da qualsiasi dispositivo. Focus Economia. Solo se mi votate. Famiglia Abate, un figlio maschio. Un figlio maschio, curiava i soliti cavirghe, va nel turbino. Baglietto, un maschio e una femmina. Impiegato al catasto. Di lei ho due maschi. Forestale. Tutte e due forestali. Onorevole, cosa sta facendo? Sì, vabbè, sì, ti ha. Famiglia Foti, due figlie, due femmine infermiere. Purtroppamente la battaglia per l'occupazione passa attraverso l'assunzione dei figli dei miei elettori. Ah. Non è regolarissimo. Tu mi voti, ti trovo un lavoro e ti sistemo. Lo bianco, tre maschi. Tu all'ANAS, un emigre. Famiglia Zimbora, un figlio maschio. Ma non è suo. No, scusi. Entrerà in politica. No, dico, l'occupazione, o meglio, l'aumento dell'occupazione a livello politico, se no si fa così, è il mitico ceto la qualunque, no? Lo dico a chi dice, l'effetto, il governo, le leggi, questo vale per la Francia come per l'Italia, possono facilitare, ma se vuoi veramente assumere, se no ti tocca assumere a livello clientelare per il voto. Allora, il figlio maschio non suo che fa il politico era mitico Antonio Albanese. Della Ringa, ritiene che a questo punto questi dati saranno solo l'inizio di un rallentamento, per cui si sia saturato il margine per gli imprenditori, per chi può assumere, cioè o riparte l'economia in maniera più forte, o se no andremo via via a raccontare incrementi dei contratti a tempo determinato, ma sempre più bassi? No, non credo proprio così, nel senso che c'è questo effetto di questi primi mesi, che probabilmente dipende anche da queste assunzioni un po' anticipate che hanno fatto molte imprese per godere di incentivi fiscali più forti, però se stiamo alle previsioni delle economie di quest'anno, anche le ultime dell'Istat, sono di 0,3-0,4 punti percentuali in più dell'anno scorso, che per carità non è che sia un miglioramento vistoso e siamo ancora sotto la media europea. Ma fra questo e dire che potrebbe affievolirsi molto il ritmo di crescita, ecco, direi di no. Probabilmente si potrebbe attenuare il ritmo di crescita dei contratti a tempo indeterminato, ecco, che per quanto più convenienti sono meno convenienti dell'anno scorso. Ma come saldo complessivo dell'occupazione, a parte gli alti e bassi, ormai siamo abituati da un mese all'altro, aumenta, diminuisce, come tendenza di medio periodo quest'anno con un aumento del PIL di 1.1.2, augurandosi che parte di quell'aumento sia anche aumento di produttività, perché ne abbiamo di bisogno, però anche solo 1.04, 1.05 di aumento dell'occupazione, cosa sono? Sono sempre quei 100.000 posti di lavoro che io penso che quest'anno in media potremo fare. Ecco. Sì, a chi mi dice le 6.000 aziende furbette, ne abbiamo parlato tante volte, perché l'INPS ha scoperto che ci sono stati imprenditori che hanno fatto i furbi, io direi disonesti, non furbi, e che hanno utilizzato la possibilità che veniva data dal Jobs Act in maniera fittizia, cioè non rientravano nella categoria che poteva utilizzare la decontribuzione, e queste aziende vanno intanto sanzionate e poi secondo me vanno anche, se fanno parte di qualche categoria, espulse, nel senso, ma qui c'è un codice etico molto molto netto su questo. Andiamo avanti invece sul resto, perché come valuta lei invece l'aumento enorme dei voucher nei primi tre mesi, più 45%, 31 milioni e mezzo di voucher, dal valore nominale di 10 euro? Dunque, è un aumento enorme, e penso che ci sia dentro un po' varie cose. Nella maggioranza, io penso, anche sulla base del monitoraggio che ha fatto il Ministero, no? Quindi abbiamo un po' di dati che ci dicono un pochettino che tipologia di voucher sono stati questi qua. In larga misura sono aggiuntivi e probabilmente sono voucher che hanno recuperato lavoro nero. Non sono rapporti di lavoro, non si chiamano rapporti di lavoro, però hanno recuperato lavoro nero. Però in parte credo che potrebbero avere sostituito quelle collaborazioni a progetto che sono state abolite. Ecco, questo può darsi, insomma, cioè regolari voucher che hanno sostituito altri tipi di lavoro precari. Altri in effetti potrebbero essere stati anche in questo caso i furbetti che evadono le disposizioni di legge. Si fa sempre l'esempio con quello che compra il biglietto del tram, poi lo tiene in tasca e se arriva il controllore lo timbra. Pare che alcuni datori di lavoro, che non sono imprese, potrebbero essere anche famiglie, chiunque può essere committente e utilizzare i voucher, si sono comportati in questo modo, fanno lavorare per 3-4 ore e poi gli danno il voucher corrispondente un'ora, 2 ore. Ecco, questo allora va combattuto aspramente. Il primo aspetto del fenomeno va tenuto sotto controllo, ecco, perché fa sempre riferimento un po' al lavoro temporaneo che va un po' contenuto. Ma il secondo aspetto, se è un'evasione, va combattuta. Allora lì può aiutare quello che sarà un provvedimento, immagino, del governo, di una tracciabilità, cioè vuol dire che chi vuole usare i voucher deve dire in anticipo chi vuole darlo, in quale ore, per quale tipo di lavoro, in modo che se viene l'ispezione quello si trova in imbarazzo se poi non rispetta quello che ha dichiarato, certo, in imbarazzo e anche in illegalità. Qualcosa di più. Allora, l'ultima domanda che ho per lei, può sembrare un po' in là col tempo, però cosa deve succedere affinché, a parte che chi mi scrive mi sento male, mi scrive una signora ogni volta che sento parlare di decontribuzione, ma come faranno questi? No, guardate che la decontribuzione vuol dire che non pagano una parte dei contributi gli imprenditori, li paghiamo noi tutti, perché ci costa sta roba, non è a costo zero, cioè la decontribuzione è costata, so vado a memoria, parecchi miliardi, adesso vado a riprendermi il dato sul costo della decontribuzione, chiedo in regia di darmi un attimo perché non ce l'ho a memoria. Però i contributi vengono dati, solo che invece che darli l'imprenditore che assume, li dà lo Stato. Molto semplice. Dicevo, il rischio che molti paventano, vedo anche i messaggi più articolati al 349-238-6666, è che se adesso rallenta, fra 2 anni e qualcosa, quando saranno finiti quando sarà finita la decontribuzione, vi possa essere invece un segno negativo, non solo più un rallentamento, un segno positivo. Che cosa, intanto, se lei teme questo, e che cosa deve capitare perché ciò non avvenga? Un po' lo temo, e io sono fra quelli che fra le misure del governo sosterrei, insomma, nell'agenda politica, le priorità, metterei questo ancora una volta del costo del lavoro, ecco, perché non c'è dubbio che deve aumentare la produttività, non c'è dubbio fra l'altro che il governo potrebbe fare altri interventi nel mercato del lavoro, no? Fare altre riforme, come quella di aiutare a far sì che i contratti collettivi si facciano più a livello aziendale che non a livello nazionale. Anche questo sarebbe molto apprezzato a livello europeo, anche dalla Banca Centrale Europea, che che stimola l'Italia a fare queste riforme. Quindi le riforme sul mercato del lavoro potrebbero non essere finite. Se a queste si potesse aggiungere un intervento di tipo strutturale sul costo del lavoro, no, anche IRPEF, non solo i contributi, e questo aiuterebbe la competitività delle imprese. Io penso che questo potrebbe essere l'intervento maggiore. Altrimenti sì, altrimenti c'è un affievolimento di quello che abbiamo visto l'anno scorso, che potrebbe essere solo compensato in quel caso se effettivamente la ripresa da 1,2 andasse 1,5 a 2. A quel punto non serve più, diciamo così, l'incentivo. Ma se questo non si realizza, ancora tentare di intervenire nelle regole del mercato del lavoro e sul costo del lavoro, io penso che dovrebbe essere la priorità tra quelle in cima all'agenda politica. Allora, per rispondere agli ascoltatori, oggi ho voglia, sappiamo tutti che Confindustria ha appoggiato il Jobs Act, ci sono alcune cose che Confindustria appoggia e altre no, detto ciò rivolgetevi a Confindustria, così come invece ha criticato, e l'ha fatto anche sulle 24 ore soprattutto come linea, e lo sa benissimo il professor Della Ringa, la scelta di levare l'IMU rispetto a ridurre IRPEF e IRAP. Io continuo a restare di questa idea, penso che l'IMU sia stato un errore del governo per fini politici, ma che non avrà per voi nemmeno un vantaggio politico, perché io sono convinto che a ottobre chi andrà a votare al referendum o adesso alle amministrative si è già dimenticato dell'IMU. Glielo dico molto chiaramente, Della Ringa, così, visto che lei fa parte del PD, penso che fosse meglio ridurre anche per i consumi interni, magari di pochi punti nelle fasce mediane, non nell'aliquota più alta, per carità, ma nelle fasce di aliquota media, ridurre di un po' la pressione fiscale, però garantendola, per cui io so sempre che da d'ora in avanti potrò avere qualche soldo in più e ho delle garanzie. E a chi lavora, perché l'IMU la levi anche a chi non lavora, la levi anche a chi non ne ha bisogno, la levi a tutti, e secondo me questo è stato un errore, punto e basta. Sul fatto invece, sto continuando a rispondere, che noi difendiamo, che dovrei vergognarmi perché noi difendiamo i vitalizi e gli stipendi dei parlamentari, guardi, si trovano sempre i soldi per gli stipendi, va bene, i vitalizi, abbiamo fatto una campagna contro i vitalizi, abbiamo una rubrica ogni venerdì sugli sprechi della pubblica amministrazione, abbiamo massacrato anche Capanna e tutti quelli che hanno difeso i vitalizi regionali, i vitalizi e i vitalizi parlamentari, non solo in questo programma, anche in altri programmi, non lo so, non so di cosa dovrei vergognarmi, ma intanto ringrazio Carlo Della Ringa. È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. Oh, passiamo alla borsa. Piace la FCA, piace il gruppo Fiat Chrysler Automobiles ai cinesi. Piace molto la FCA ai cinesi. Eleonora Micheli, buonasera. Buonasera. Allora, parliamo con te di Fiat Chrysler e poi anche degli altri titoli. Perché lo dico? Perché c'era stato un movimento nel titolo dopo le voci di un interesse dei cinesi produttori di auto della GAC. Dopo la smentita tutto si è raffreddato, così partiamo dalla parte più recente, anche se il titolo è rimasto molto in altalena lungo tutto il giorno. Prego, Eleonora. Guarda, facendo un breve riassunto, questa mattina sull'ipotesi di un interesse dei cinesi di GAC, i titoli si muovevano in rialzo del 3% nonostante la borsa andasse giù. Nel pomeriggio, arrivata la secca smentita da parte dei cinesi, i titoli hanno subito imboccato la strada del ribasso, sono arrivati a perdere quasi l'1% nonostante invece la borsa andasse su, e poi tuttavia hanno chiuso in lieve progresso dello 0,16%, come a dire che gli investitori probabilmente pensano che magari sotto sotto c'è qualcosa o comunque che ci sarà un processo di consolidamento nel comparto dell'auto. In effetti, appunto, dopo che i titoli sono andati giù hanno poi subito recuperato terreno. Sì, dopo il traffico commenteremo invece anche gli altri titoli, a partire da Telecom e da qualche bancario. Chi mi chiede: ma come è andato il cuneo fiscale? Purtroppo, adesso non c'entra niente con la borsa, ma la differenza da quanto tu hai in busta paga e quanto invece ottieni, quanto costi l'azienda, beh, purtroppo non solo non si è ridotto, è anche leggermente aumentato. Per cui ecco perché secondo noi era necessaria una manovra sui salari, sui redditi, sulle aliquote, non le più alte, non di chi guadagna tanto, ma di chi ha più bisogno, e anche magari sui costi per le imprese del lavoro, quindi la tassazione preventiva, con l'ipotesi magari di fare pagare dopo se aiuti. Comunque, traffico. Focus Economia. minuti. Allora, sì, confermo che poi torniamo a parlare di borsa. Confermo che tra i casi bellissimi di questo paese c'è anche la reversibilità del vitalizio per i deputati o i consiglieri dell'Assemblea regionale siciliana. Lo possono girare i figli. Nel 2015 questo è costato alle casse siciliane, quindi alle casse anche nostre, 6 milioni di euro all'anno, 520 mila euro al mese, perché ne hanno usufruito 117 ex consiglieri che hanno poi, una volta che decedono, possono essere, può essere girata il vitalizio come una pensione di reversibilità. Questo è pazzesco, capito? Ok, dopodiché, ed è una critica che abbiamo fatto al governo, bisogna avere il coraggio di affrontare anche tutta la riforma delle regioni autonome, con buona pace di quelle virtuose, ma sempre grazie ai soldi nostri, Alto Adige, Trento e Friuli, a maggior ragione per quelle viziose, con i soldi nostri, Sicilia in primis. Ma non mi sembra che sia nel progetto di riforma, anzi quella è un'occasione persa a mio avviso nel progetto di riforma costituzionale. Eliminiamo ste regioni a statuto speciale e basta. Vabbè, torniamo alla borsa. Eleonora Micheli, Telecom invece. Sì, Telecom oggi è andata in controtendenza, ha lasciato sul parterre mezzo punto percentuale, mentre ricordiamo i vertici della società, cioè il presidente Recchi e l'amministratore delegato Cattaneo, sono in America, a New York e Boston per illustrare i conti del primo trimestre e soprattutto la strategia che punta a 1,6 miliardi di riduzione dei costi entro il 2018. Intanto si stringono i tempi anche per l'assemblea degli azionisti che si riunirà la prossima settimana, esattamente il 25 aprile, e proprio nel corso dell'assemblea potrebbero emergere delle novità o se ne potrebbero vedere anche delle belle. E allora aspetteremo poi un'assemblea delicatissima, in effetti hai ragione. Intanto ne ringraziare Donna Micheli, do la linea al GR24, poi gli altri titoli, soprattutto i migliori e i peggiori, li facciamo dopo le 18, dove parleremo anche della Commissione Europea, che ha confermato quanto abbiamo anticipato ieri, di questo Fondo Monetario Internazionale che diventa più keynesiano degli europei, della Germania, e dice: dovete, non potete strangolare la Grecia su un debito che non può ripagare, dovete rinegoziarlo a 40 anni. 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. State ascoltando un programma offerto da... Perché porti dei limiti? Saxo Bank, fai trading ovunque, da qualsiasi dispositivo. Focus Economia. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Stavamo concludendo l'aggiornamento di borsa con altri titoli, diciamo oggi bene la Popolare Emilia Romagna più 7% ed ST Microelectronics più 6,20%, di Exor e Fiat abbiamo già detto, comunque Exor oggi è più che positiva, più 3, scusatemi, e 70%. Su ST Microelectronics confermo, chi me lo chiede, che lì c'è un ragionamento anche sul ruolo che potrà avere ST Microelectronics nello sviluppo che si sta cercando di fare delle auto senza conducente, sempre sotto osservazione tra virgolette Unicredit, perché resta il tema dell'eventuale cambio ai vertici, ma tornando a chi più ha guadagnato: UbiBanca più 3,70, Poste più 2,70, Intesa San Paolo più 2,60, Luxottica più 2,40, Pop Milano più 2,20, come le generali, Atlantia più 2%, come il Monte dei Paschi. Telecom meno 0,50, dicevamo, Saipem meno 0,50 come Moncler e Ferrari, Ferragamo perde lo 0,70, Anima Holding l'1,5%. Su RCS, servizio ricordo della sera, resta il valore del titolo un po' sopra il prezzo dell'offerta ultima, quella di Bonomi, è nettamente sopra l'offerta di Cairo. Tra i titoli segnalo Meteoros Capital più 20%, Pop Emilia Romagna più 7%, Stima Electronics appunto più 6,20%, bene anche Fincantieri più 5,70%. Fronte opposto Invest meno 12%, Gala meno 5,40%, Gruppo Waze Italia meno 9,70%. Allora, prima di arrivare all'Europa, anche se ci sono novità, perché poco fa il commissario europeo Moscovici ha detto che non è escluso che l'Italia possa godere della flessibilità che ha ottenuto quest'anno anche l'anno prossimo, a patto che il deficit sia effettivamente all'1,8%. Però vorrei nel salutare Mario Platerio in collegamento con noi da New York. Buonasera Mario. Buonasera. Vorrei raccontare questo apparente, o meglio, questo paradosso. Dicevo all'inizio trasmissione, per anni, decenni, il Fondo Monetario Internazionale, anche con qualche ragione, è stato visto come il garante dell'ortodossia monetarista e quindi gli stati per risanarsi devono tagliare la spesa pubblica, tagliare i conti, agganciare la valuta, pensiamo all'Argentina ma non solo, al dollaro, anche a costo di andare in pesante recessione, cosa che è successa. La critica era: il Fondo Monetario prende ordini dalla finanza, garantisce i creditori di Wall Street e anglosassoni in primis, le banche d'affari americane. E invece oggi scopriamo che il Fondo Monetario Internazionale sta facendo una pressione anche forte sui governi dell'area euro affinché rinegozino il debito greco, cioè vorrebbe che vi fosse una moratoria fino al 2040 di Atene verso i paesi europei creditori, quindi niente tasse di interesse, niente rimborso di capitale, tutto verrebbe poi spalmato dal 2040 al 2080, perché, fa notare il Fondo Monetario, la Grecia sta pagando più del 15% di interessi sul debito e definisce la situazione di Atene altrimenti altamente insostenibile. E il riferimento è proprio alla Germania, visto che Wolfgang Schäuble, il ministro finanziario, ha detto più volte di essere contrario a questa soluzione. Cos'è, Mario, un fondo monetario che a guida francese Christine Lagarde diventa più keynesiano, oppure è talmente assurda la situazione greca che perfino la vestale dell'ortodossia del risanamento dice in questo caso sarebbe come uccidere il creditore e quindi non ottiene più nulla? Guarda, è assurda come tu dici, perché costringe la Grecia ad andare sotto. Del resto i termini che erano stati concordati erano davvero dei termini catestro a suo tempo, e dunque poi abbiamo visto che la Grecia non ce l'ha fatta, anche perché poi l'Europa continua a non crescere. Sai, se ci fossero dei tassi di crescita molto forti come si sperava, magari la Grecia poteva agganciarsi, ma così non è successo. Ma ci sono due elementi. Il primo ovviamente è finanziario, economico, e riguarda la non sostenibilità della Grecia, il fatto che il Fondo Monetario ci tenga che il sistema monetario europeo resti, il sistema dell'euro resti così com'è. Ma il secondo è anche politico, ed è politico secondo me su più livelli. Il Fondo Monetario manda un messaggio alla Germania in particolare, la Germania che è stata ostinatamente contraria a delle politiche fiscali espansive, che ha impedito una politica monetaria accomodante fino a quando non è arrivato Draghi, ma abbiamo perso forse 3 anni di percorso di crescita possibile. Dunque ci si rende conto che l'Europa è fragile per via di questa miopia, di questa ostinazione tedesca. Dunque c'è un forte messaggio politico, devo dire, in sintonia tra l'altro con gli Stati Uniti. L'America più volte ha attaccato la Germania su questo stesso fronte, però sia io che te sappiamo che la Germania da quell'orecchio non vuole sentirci, e secondo me sbaglia, perché molte delle situazioni drammatiche in cui ci troviamo oggi sono secondo me imputabili a questa ortodossia tedesca, a questa monovisione tedesca. Mi riferisco a che cosa? Beh, a Brexit per esempio, al fatto che l'economia europea non cresce, al fatto che ci siano state delle risposte a livello popolare che, come tu sai, hanno infiammato nazionalismi e movimenti populisti. Dunque il contesto è di più ampia veduta, secondo me. Il Fondo Monetario Internazionale se ne rende conto in rappresentanza di una comunità mondiale, perché dentro il Fondo Monetario, come sai, ci stanno tutti, la Cina, il Giappone, Cina tra l'altro che è cresciuta, e tutti nella comunità mondiale. vorrebbero un'Europa in crescita, un'Europa un po' più aggressiva. La vorremmo anche noi che abitiamo qui in Europa, Mario, per cui figurati. Ecco, appunto. E quindi la pressione è sulla Germania, però questo forse puoi spiegarlo meglio tu, se la Germania secondo te ascolterà qualcosa o no. Secondo sono molto scettico, diciamo, per essere, infatti, per essere però, buoni. Insomma, più si batte meglio è, credo. Anche perché la Germania, come la Spagna, va a elezioni ad aprile dell'anno prossimo, se non ricordo male, va a elezioni la Germania. E quindi lì Alternative for Deutschland, che è il partito nazionalista, xenofobo e quant'altro, che spaventa molto sia i socialdemocratici che la CDU e quindi il partito di Angela Merkel. Però è interessante notare come cambiano i tempi, nel senso che perfino un fondo monetario che era il garante dei creditori, mettiamola così, il pignoratore sul base mondiale del recupero crediti, lo dico volutamente in maniera provocatoria, adesso dice date fiato alla Grecia perché tanto non ne possono uscire in quel modo. Visto che adesso devo parlare invece anche di Italia ed Europa, e ci ha già raggiunto in collegamento il professor Franco Bruni, docente di economia monetaria alla Bocconi di Milano. Buonasera professore. Buonasera. Vuoi darmi un commento anche su questo? Ci sono scambiati i ruoli o sbaglio? Beh, il Fondo Monetario ha sempre detto che il debito della Grecia andava tagliato e che bisognava riconoscere che non era in grado di sostenerlo, e quindi da sempre ha cercato di insistere su questo. E ha anche insistito però a suo tempo perché noi aiutassimo la Grecia, quindi direi che nel complesso il fondo è sempre stato, ha sempre avuto una posizione diversa un po' dalla nostra. E la Germania è in una situazione di contraddizione perché da un lato vuole che il fondo partecipi a queste cose della Grecia perché lo vede come un aiuto alla severità, dall'altro però non è d'accordo con quello che il fondo vorrebbe, cioè tagliare il debito. Questo diciamo che per dare un'immagine la Germania vorrebbe che avere un poliziotto cattivo. Il problema è che il poliziotto cattivo è più buono del poliziotto buono. È diverso, hanno cattiveria diversa, insomma. Sì, anche... nel salutare Mario Platero, che ci ha spiegato come questo sia assolutamente in sintonia anche con la Casa Bianca e con le preoccupazioni che arrivano anche da Cina e da altri paesi. Mario, una battuta al volo perché non è oggetto di questo approfondimento, ma Trump, Clinton, come è messo Trump? Ma dunque Trump è forte, caro. Questo perché, l'avevamo intuito. Ecco, è forte, ma è forte perché? Perché lui sta già pensando al vicepresidente, oggi incontrava Henry Kissinger, ha fatto pace con Meghan Kelly. Torniamo al containment. L'Anchorwoman appunto di Fox TV, mentre invece Hillary si deve confrontare ancora con Bernie Sanders, il quale avanza. Ha vinto l'Oregon ieri e è arrivato a un pelo dalla vittoria nel Kentucky. Dunque, insomma, è un momento di difficoltà per Hillary, la quale però secondo me ha già ingaggiato, guardando al futuro, due armi per neutralizzare Trump o cercare di neutralizzarlo, due uomini. Il primo è Barack Obama, naturalmente, che ha fatto domenica un discorso molto molto bello attaccando tutti quegli aspetti negativi, diciamo, sul piano dei valori di Trump. E l'altro è il marito, Bill Clinton, al quale ha detto che affiderà certi incarichi economici. Sì, non di politiche per la famiglia, mettiamo su Bill Clinton. No, però insomma Bill è un uomo ancora amato. No, ma certo, adesso a parte tante cose, io la cosa che gli rimprovero fu una certa leggerezza con la finanza di Wall Street, però è stato un presidente che insomma di cose ne ha fatte negli Stati Uniti, ma non voglio certo fare l'endorsement per Clinton e la Clinton, ci interessa la posizione di, e ne avremo modo di parlarne, anche perché la posizione di Trump sui temi dell'economia, come immaginate, è una posizione abbastanza radicale, un po' come tutto quello che dice Trump. Grazie intanto a Mario Platero, che più ci avvicineremo alle elezioni americane con gli speciali, con tutto, più sarà anche nostro ospite. Traffico e poi con il professor Bruni Europa e deflazione, e arriverà anche la mitica per commentarci le raccomandazioni arrivate oggi dalla Commissione Europea all'Italia, che ci ha confermato 14 miliardi di maggiore spesa sul deficit. Focus Economia. Allora, professor Bruni, oggi confermata a livello europeo quanto ieri abbiamo anticipato, e quindi da un lato i 14 miliardi di maggiore flessibilità sul deficit, spiegati di nuovo, sono 8 miliardi e 2 per le riforme fatte, 0,25 punti fatte per l'effetto delle riforme in cantiere, 4 miliardi legati agli investimenti, e poi 700 milioni per le spese in più per i flussi migratori e 950 milioni in più per le spese per la sicurezza. L'Europa ci dice anche attenzione però al 2017, ma non esclude una maggiore flessibilità. Nel giorno in cui, professore, abbiamo una conclamata deflazione su 13 paesi dell'area euro. Sì, insomma, la deflazione certo non è che vada combattuta con l'indisciplina, no, certo, della finanza. Quello che però mi sembra importante è che la Commissione, non solo nei confronti dell'Italia, ma anche forse soprattutto nei confronti dell'Italia, ha fatto delle raccomandazioni tutte centrate sui fenomeni strutturali. Cioè, adesso tutti sottolineano questo fatto che nel 2017 dovremo fare questo aggiustamento, abbiamo le clausole di salvaguardia da mettere a posto, dobbiamo ridurre il deficit, eccetera. Però attenzione, su 5 raccomandazioni numerate della Commissione, 4,5, per non dire 4 3/4, compresa la prima che guarda i numeri del deficit, sono tutte di tipo strutturale. Cioè, dobbiamo accelerare le privatizzazioni, la Commissione ci tiene a dire che dobbiamo spostare le imposte dai fattori produttivi alla proprietà e al consumo, quindi in sostanza rilancia l'idea che forse abolire l'IMU non è stata una cosa del tutto giusta. Poi dopo la seconda raccomandazione riguarda la pubblica amministrazione e entra nel dettaglio, la terza riguarda le banche ed entra nel dettaglio in 3 righe ma con un'incisività eccezionale, la quarta riguarda alle politiche attive del lavoro, che sono forse la cosa più urgente che deve succedere. Abbiamo un'agenzia in piedi con un presidente che, tra l'altro, il nostro collega Bucconiano, non hanno ancora il via, non hanno ancora, praticamente non c'è nessuno che si occupa di gestire la disoccupazione e il collocamento in modo attivo come si dovrebbe. E alla fine la quinta guarda alla legge per la concorrenza, che come sappiamo è stata massacrata in Parlamento dalle corporazioni. Quindi non appendiamoci a questi numeri, no, anche noi, cioè, visto che la Commissione ci permette di discutere su delle cose serie, io credo che dobbiamo guardare a queste cose serie, e in fondo la ragione per cui abbiamo avuto anche un pochino più di respiro col deficit è perché abbiamo dato l'impressione perlomeno che siamo su un cammino di riforma. Oh, allora, così mi becco di nuovo del renziano, però faccio notare che oggi il Financial Times, che non penso sia filo renziano, scrive che l'Italia è la grande vincitrice nel confronto con l'Unione Europea dopo mesi di pesante lobbying da parte di Matteo Renzi. La decisione della Commissione Europea di tollerare paesi come Italia, Francia e Spagna sui conti ha innescato un intenso dibattito al suo interno. Io dico, come dissi ieri, se otteniamo un po' più di flessibilità e meno rigore ragionieristico, tutti dobbiamo essere contenti, sia che uno apprezzi il governo o che non lo apprezzi. Però su questo vorrei sentire anche la mitica. Adriana Ceretelli, editorialista del Sole 24 Ore, in collegamento da Bruxelles. Buonasera, Adriana. Buonasera. Ti ho fatto anche la sigletta adesso per la mitica. Allora, certo, tutto dovuto, come per il resto del paese. Allora, detto questo, Franco Bruni diceva, attenzione, va fatto notare come al di là delle richieste per l'anno prossimo e al di là dell'apertura di poco fa di Moscovici, che ha detto non escludo la flessibilità per l'Italia se manterrà il deficit all'1,8 anche nel 2017, che è un po' più serio il ragionamento che fa la Commissione. Non guarda solo in maniera ragionieristica il deficit, lo 0,1-0,2, dice attenzione a questi nodi strutturali, e quindi riforma Madia sulla pubblica amministrazione e tutto il resto che citava, spostare la tassazione da chi lavora al patrimonio. Sei d'accordo che sia un approccio un po' più serio, nel senso che non guarda solo al brevissimo termine? Ma io direi che c'è un po' dell'uno, un po' dell'altro, nel senso che questo tipo di raccomandazioni sulla fiscalità, sulla pubblica amministrazione, sulla riforma della giustizia, purtroppo si ripetono da anni e anni inascoltate. Detto questo, e quindi in questo senso non sono una novità, Detto questo, però, secondo me in questo momento diventano una novità, in quanto appunto quello che tu chiami approccio ragionieristico viene dico ammorbidito, e si tende a valorizzare invece l'approccio strutturale. Questo perché i conti pubblici medi aggregati dell'Eurozona sono decisamente migliorati. Se per esempio si guarda al deficit, nel 2010 era al 6,1, oggi è all'1,9, è diviso 3 in sostanza, l'anno prossimo sarà all'1,6. Quindi al di là di tutto non sono dei regali, in qualche modo l'Europa se li è guadagnati mettendo a posto i suoi conti. Naturalmente resta sempre la questione debito, infatti l'Italia sarà diciamo richiamata per una verifica in novembre, proprio per vedere se avrà mantenuto gli impegni eccetera eccetera, ma poi alla fine se li avrà mantenuti molto probabilmente anche questo famoso aggiustamento strutturale dello 0,6%, cioè i 3 miliardi di un po' di no, più. Lo 0,6% sono circa 10, quello, che sì, dovrebbe avvenire per il famoso obiettivo di medio termine, che è poi il pareggio strutturale del bilancio nel 2019. Ecco, dicevo, se gli impegni, come io penso, alla fine saranno rispettati, quello 0,6 che ci chiedono in realtà potrebbe diventare qualcosa di simbolico, perché verrà dato un giudizio più ampio nel rispetto delle regole, piuttosto che quello puntuale ragionieristico di cui si diceva. Quindi diciamo, sicuramente l'Italia è uscita molto bene da questa partita, però io aspetterei a cantare vittoria a novembre, perché bisognerà vedere poi cosa faremo nel 2017, eccetera, eccetera, e soprattutto quello che temo è l'avvicinarsi di scadenze elettorali, che quindi tendono in generale diciamo a non indurre i governi ad essere troppo rigorosi. Però il segnale è sicuramente un segnale positivo per l'Italia, ma non dimentichiamoci che per tutti è Tutti, anche infatti Financial Times cita anche Spagna, insomma. Giusto, cita anche Spagna e Francia, Portogallo ci mancherebbe, La stessa Germania non si è presa una reprimenda diciamo durissima come magari avrebbe dovuto, visto che ha un avanzo corrente prima dell'8,8% del PIL, eppure è stata invitata, ma nessuno ha parlato di una procedura per la Germania. Ecco. Tutti più morbidi, tutti più buoni, bene così, perché ripeto, se abbiamo un po' più di margine, poi bisognerà guardare come il governo spenderà questi soldi, come verrà utilizzato questo margine, lì ci va la valutazione politica. Però intanto la notizia buona c'è, con le cautele che ricordava Adriana Ceretelli, e anche però notando quello che rilevava Franco Bruni, cioè un'Europa che guarda un po' più in maniera strutturale. A chi mi chiede, non invita mai il professor Piga, guardi, l'abbiamo cercato una settimana, è in Kazakistan, verrà ospite venerdì, è veramente tutto. Grazie a Franco Bruni, a Adriana Ceretelli, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi per un'altra puntata di Focus Economia. Radio 24, la passione si sente.